Episodio 11. 30. Ascolta la conversazione. Ma vivere in un trullo, io non lo so, ho sentito che non c'è luce elettrica, non c'è acqua, è vero? Allora, anche lì il discorso è questo. Albero bello, ormai nell'abitato ci sono tutti i servizi. E chiaramente è complicato mettere un bagno in un trullo, perché in origine non ce l'aveva. Sono edifici che, diciamo, sono i più antichi, sono del 1600. E si sono costruiti trulli più o meno fino al primo dopoguerra, i più recenti, però più antichi appunto risalgono credo alla seconda metà del 600. Pensa che io l'avevo immaginato come una cosa preistorica, no, sono abbastanza recenti, sì. E anche se, cioè, stiamo parlando sempre di, diciamo, di un luogo dove il trullo è diventato sistema costruttivo, sì. Cioè, perché il trullo come tipo, diciamo, un edificio a cono come tipo di costruzione è una cosa che esiste in tutto il Mediterraneo e risale a quando c'è, cioè, l'invenzione delle volte, perché sostanzialmente è un'eccezione di una costruzione a volta. Quindi tutto il Mediterraneo è disseminato di edifici che sembrano dei trulli o sono fatti col sistema costruttivo dei trulli. In quella zona questa è diventata la regola costruttiva in un determinato periodo. E poi ad Alberobello in particolare è diventato il sistema costruttivo col quale è nato l'intero abitato, insomma. Infatti tutti conoscono Alberobello, i trulli di Alberobello, cioè, perché sono urbani, sì. Diciamo. E comunque anche quelli più recenti nascono in un periodo in cui non era normale, cioè il bagno era una cosa che non c'era. Per cui non erano dotati dei servizi come li intendiamo noi oggi. Però quelli che sono dentro Alberobello, cioè nell'abitato di Alberobello, ormai hanno tutto, hanno fogna, hanno luce, hanno telefono, hanno tutti i servizi. E sono divisi per stanze o un ambiente unico interno? E sono molto complessi, cioè c'è di tutto. Diciamo, non esiste la stanza come la intendiamo noi canonicamente. Esistono degli ambienti che possono comunicare fra di loro attraverso solo una porta oppure attraverso un'apertura più grande. Possono essere più ambienti adiacenti, più o meno comunicanti fra di loro. Diciamo, l'elemento minimo è una parte di costruzione coperta da un'eccezione di volta, una volta molto particolare, che dall'esterno ha l'aspetto di un cono. Questa è l'unità minima. L'unità di trullo. Esatto. Che può essere, poi può crescere, cioè possono essere più coni uniti, poi si ampliano successivamente con l'aggiunta di altri coni, e poi a seconda del periodo e quindi anche della tecnica costruttiva con cui sono realizzati possono avere un'apertura più o meno grande con il cono adiacente, insomma, o con l'esterno. I colori sono sempre più o meno bianco, grigio il tetto o no? O ci sono anche variazioni? No, allora, no, i colori sono quelli perché sono i colori. Allora, il tetto ha, diciamo, un grigio che è la pietra, che poi però col tempo si ossida. Per quanto riguarda invece i muri, diciamo, normalmente nel centro abitato tutti questi edifici, come in genere in tutta, diciamo, le città vecchie della Puglia, i muri erano intonacati e dipinti a calce, cioè dipinti, insomma, trattati con la calce, che disinfettava, che dava un bianco, che in qualche modo aiutava rispetto al sole e quant'altro. I trulli di campagna, normalmente, che in genere non sono fatti per un'abitazione, cioè per abitarci in modo continuo, stabile, in genere non sono intonacati sull'esterno e quasi sempre non sono intonacati neanche all'interno. Spesso non sono intonacati neanche all'interno. Dipende dall'uso per il quale nasceva il trullo. I trulli di campagna spesso erano solo degli edifici di supporto alla gestione del terreno, ma che venivano utilizzati periodicamente, potevano essere, anche essere abitati per qualche giorno di seguito, ma non in modo continuato. Tu ci andrai a vivere in quello che hai comprato? D'estate? Spero di sì.